Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei parlare su due padri, Boezio e Cassiodoro, che hanno vissuto fra i tempi più tribolati dell'Occidente cristiano e della penisola italiana. La ribellione di Odoacre, re degli Eruli, un'etnia germanica, aveva posto termine all'impero romano d'Occidente nel 476. Ma lo stesso Odoacre aveva ben presto dovuto soccombere agli ostrogoti di Teodorico, che poi per alcuni decenni si assicurarono il controllo della penisola italiana. Boezio, il primo dei padri sui quali vorrei parlare, è nato a Roma nel 480 circa, dalla nobile stirpe degli Anicii, entrò ancora giovane nella vita pubblica, raggiungendo già a 25 anni la carica di senatore. Fedele alla tradizione della sua famiglia, si impegnò in politica, convinto che si potessero temperare insieme le linee portanti della società romana con i valori dei popoli nuovi, e considerato in questo nuovo tempo dell'incontro delle culture proprio questo come una sua missione di riconciliare e di mettere insieme queste due culture, la classica romana con la nascente del popolo ostrogotico. Così era anche sotto Teodorico, attivo in politica e nei primi tempi molto stimato da Teodorico. Ma nonostante questa attività pubblica, non trascurò gli studi, dedicandosi in particolare all'approfondimento di temi di ordine filosofico e religioso, ma ha scritto anche manuali di aritmetica, di geometria, di musica, di astronomia, tutto nell'intenzione di trasmettere alla nuova generazione, ai nuovi tempi, la grande cultura greco-romana. In questo ambito, in questo lavoro dell'incontro delle culture, della conservazione, del rinnovamento della cultura greco-romana, utilizzò le categorie della filosofia greca per proporre la fede cristiana, anche qui in ricerca di una sintesi tra il patrimonio ellenistico romano e il messaggio evangelico. Proprio per questo Boezio è stato qualificato come l'ultimo grande rappresentante della cultura romana antica e il primo degli intellettuali medievali. La sua opera più nota è il De Consolatione Philosophiae, che egli compose in carcere per dare un senso alla sua ingiusta detenzione. Era stato infatti accusato di complotto contro il re Teodorico per aver assunto la difesa in giudizio di un amico, il senatore Albino, ma questo era un pretesto, era in realtà il sospetto di Teodorico, ariano e barbaro, che Teopoezio avrebbe simpatie per l'imperatore bizantino Giustiniano, così lo ha incarcerato. Condannato a morte e fu giustiziato il 23 ottobre del 524 con solo 44 anni. Proprio per questa sua drammatica fine egli può parlare dall'interno della propria esperienza anche all'uomo contemporaneo e soprattutto alle tantissime persone che subiscono la sua stessa sorte a causa della ingiustizia presente in tanta parte della giustizia umana. In questa opera nel carcere cerca la consolazione, cerca luce, cerca la saggezza e dice che ha saputo proprio in questa situazione distinguere tra i beni apparenti. Nel carcere scompaiono questi beni apparenti, anche le amicizie apparenti, e i beni veri che non scompaiono è l'amicizia vera. Il bene vero che non scompare è Dio. E ha imparato anche, ci insegna, non cadere nel fatalismo, che poi non ha più speranza. Non governa il fatum, la fortuna, governa la provvidenza. E la provvidenza ha un volto, con la provvidenza si può parlare perché Dio è la provvidenza. E così anche nel carcere rimane la possibilità della preghiera, del dialogo con colui che ci salva. Ma nello stesso tempo, anche in questa situazione, ha conservato il senso per la bellezza della cultura e richiama l'insegnamento dei grandi filosofi antichi greci e romani come Platone e Aristotele, aveva cominciato a tradurre questi greci in latino, Cicerone, Seneca, ed anche poeti come Tibullo e Virgilio. La filosofia, nel senso della ricerca della vera saggezza, è per Boezio la vera medicina dell'anima. E dice che l'uomo può sperimentare l'autentica felicità unicamente nella propria interiorità. Per questo riesce a trovare, come detto, un senso nel pensare alla propria tragedia personale alla luce di un testo sapienziale dell'Antico Testamento che egli cita. Contro la sapienza, la malvagità non può prevalere, essa si estende da un confine all'altro con forza e governa con bontà eccellente ogni cosa. L'avversa fortuna permette, come detto, di discernere beni veri e falsi, amici veri e falsi, e capire anche il valore della amicizia vera. E finalmente, in questa condizione della sofferenza, dice che la vera amicizia elimina, no, il fato elimina la possibilità della preghiera, mentre la provvidenza ci permette sempre di stare in rapporto di amicizia con Dio. La perorazione finale del trattato sulla consolazione della filosofia può essere ritenuta una sintesi dell'intero insegnamento che Boezio rivolge a se stesso e a tutti coloro che si dovessero trovare nelle sue stesse condizioni. Scrive in carcere così: combattete dunque i vizi, dedicatevi ad una vita virtuosa orientata dalla speranza che spinge in alto il cuore fino a raggiungere il cielo con le preghiere nutrite di umiltà. L'imposizione che avete subito può tramutarsi, qualora rifiutiate di mentire, nell'enorme vantaggio di avere sempre davanti agli occhi il giudice supremo che vede e sa come stanno veramente le cose. Ogni detenuto, per qualunque motivo sia finito in carcere, intuisce quanto sia pesante questa particolare condizione umana, soprattutto quando essa è abbrutita, come accade a Boezio, dal ricorso alla tortura. Particolarmente assurda è poi la condizione di chi, ancora come Boezio, che la città di Pavia riconosce e celebra nella liturgia come martire della fede, viene torturato a morte senza alcun altro motivo che non sia quello delle proprie convinzioni ideali, politiche e religiose. Boezio, simbolo di un numero immenso di detenuti ingiustamente di tutti i tempi e di tutte le latitudini, è di fatto oggettiva porta di ingresso alla contemplazione del mistero del crocifisso di Golgota. Contemporaneo di Boezio fu Marco Aurelio Cassiodoro, un calabrese nata a Squillace verso il 485, che morì pieno di giorni, con più di 90 anni, a Vivarium intorno al 580. Uomo di alto livello sociale anche lui, si dedicò alla vita politica e all'impegno culturale come pochi altri nell'Occidente romano del suo tempo. Forse gli unici che gli potevano stare alla pari in questo suo duplice interesse furono il già citato Boezio e il futuro Papa di Roma Gregorio Magno. Consapevole della necessità di non lasciare svanire nella dimenticanza tutto il patrimonio umano e umanistico accumulato nei secoli d'oro dell'impero romano, Cassiodoro collaborò generosamente ai livelli più alti della responsabilità politica con i popoli nuovi, che avevano attraversato i confini dell'impero e si erano stanziati in Italia. Anche lui modello di incontro culturale, di dialogo, di riconciliazione. Le vicende storiche non gli permisero di realizzare i suoi sogni politici e culturali, che miravano a creare una sintesi fra tradizione romano-cristiana dell'Italia e la nuova cultura gotica. Quelle stesse vicende lo convinsero però della provvidenzialità del movimento monastico che si andava affermando nelle terre cristiane. Decise di appoggiarlo, dedicando a questo movimento monastico tutte le sue ricchezze materiali e le sue forze spirituali. Egli concepì l'idea di affidare proprio ai monaci il compito di recuperare, conservare e trasmettere ai posteri l'immenso patrimonio culturale degli antichi perché non andasse perduto. Per questo fondò Vivarium, un cenobio in cui tutto era organizzato in modo tale che fosse stimato come preziosissimo e irrinunciabile i lavori intellettuali dei monaci e anche prescritto che anche quei monaci che non avevano una formazione intellettuale tuttavia non dovrebbero solo occuparsi con lavoro materiale nell'agricoltura ma anche trascrivere manoscritti e così aiutare nel trasmettere la grande cultura alle future generazioni. E questo senza nessuno scapito per l'impegno spirituale monastico e cristiano e per l'attività caritativa verso i poveri. Nel suo insegnamento attribuito in varie opere, ma soprattutto nel Trattato di Anima e nelle Institutiones Divinarum Literarum, la preghiera, nutrita dalla Sacra Scrittura e particolarmente dalla frequentazione assidua dei Salmi, ha sempre una posizione centrale, quale nutrimento necessario per tutti. Ecco, ad esempio, come questo dottissimo calabrese introduce la sua Expositio in Psalterium, cito: respinte e abbandonate a Ravenna le sollecitazioni della carriera politica, segnata dal sapore disgustoso delle preoccupazioni mondane, avendo goduto del Salterio, libro venuto dal cielo come autentico miele dell'anima, mi tuffai avido come un assetato a scrutarlo senza posa per lasciarmi permeare tutto di quella dolcezza salutare dopo averne avuto abbastanza delle innumerevoli amarezze della vita attiva. La ricerca di Dio, teso alla sua contemplazione, annota Cassiodoro, resta lo scopo permanente della vita monastica. Egli aggiunge però che con l'aiuto della grazia divina una migliore fruizione della parola rivelata si può raggiungere con l'utilizzazione delle conquiste scientifiche e degli strumenti culturali profani già posseduti dai greci e dai romani. Personalmente Cassiodoro si dedicò a studi filosofici, teologici ed esegetici, senza particolare creatività, ma attento alle intuizioni che riconosceva valide negli altri. Leggeva con rispetto e devozione soprattutto Girolamo e Agostino. Di quest'ultimo diceva: in Agostino c'è talmente tanta ricchezza che mi sembra impossibile trovare qualcosa che non ci sia stato abbondantemente trattato da lui. E citando Girolamo, esortava i monaci di Vivarium: conseguono la palma della vittoria non soltanto coloro che lottano fino all'effusione del sangue o che vivono nella verginità, ma anche tutti coloro che con l'aiuto di Dio vincono i vizi del corpo e conservano la retta fede. Ma perché possiate sempre con l'aiuto di Dio vincere più facilmente le sollecitazioni del mondo e i suoi allettamenti, restando in esso come pellegrini continuamente in cammino, cercato anzitutto di garantirvi l'aiuto salutare suggerito dal primo Salmo, che raccomanda di meditare notte e giorno la legge del Signore. Il nemico non troverà infatti alcun varco per assalirvi se tutta la vostra attenzione sarà occupata da Cristo. È un ammonimento che possiamo accogliere come valido anche per noi. Anche noi viviamo in tempo di incontro delle culture, di pericolo della violenza che distrugge le culture e di un impegno necessario per un vero impegno per trasmettere i grandi valori, insegnare nuove generazioni per una via della riconciliazione, della pace, e la troviamo orientati verso Dio col volto umano, il Dio rivelatosi in Cristo. Grazie.